La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. Questa lettera la manda Eros, non il solito Eros che noi ascoltiamo ogni tanto quando si lagna che lo stanno uccidendo, Eros è quello che fu un dio, no, questo è un ascoltatore. Allora Eros scrive che l'altra notte mi ha colpito il fatto che hai detto che tu non creda ci sia un al di là. Dice, non voglio dirti che ti sbagli, però mi consiglia il libro di Salvatore Brizzi, Alchimia Contemporanea. Cioè potresti anche iniziare a renderti conto che la morte non esiste e che addirittura sei tu stessa Dio, quello con la D maiuscola. Ma sai, questo forse non ne abbiamo bisogno, perché convinti di essere Dio ce ne sono fin troppi oggi e ho paura anzi che sia una sindrome dei contemporanei. Certo, se intendi come nel verso di William Blake, che abbiamo spesso ricordato, dal matrimonio del cielo e dell'inferno, e allora gli uomini dimenticarono che ogni deità si trova nel cuore dell'uomo. Ecco, lì ti darei anche retta. Comunque, guarda, io non so cosa tu abbia sentito e francamente neanche cosa io abbia detto. Certo, io non sento che ci sia l'aldilà, devo dirti la verità, non lo sento. Però credo nel mistero, cioè sono pronta a credere a tutto. Magari ci fosse un'altra vita, cioè io non sono contraria all'aldilà. Io so con chiarezza che non sappiamo nulla, quindi mi rimetterei volentieri a un'altra dimensione. Ma ho detto anche più volte che rimpiango di non credere nel paradiso, perché allora avrei risolto, vedrei i miei cari e avrei un futuro affettivo per l'eternità, almeno come ce lo presentano secondo la religione nella quale mi hanno educata e che poi ho rifiutato. Ringrazio Lino Rosolen, che ci scrive da Villach in Austria, per dire che è d'accordo sulla severità che abbiamo avuto nel commentare l'episodio di Mario Monti che prendeva sfacciatamente in giro una giovane giornalista davanti alle telecamere. Però devo fare una piccola rettifica, perché a Piazza Pulita hanno rimandato la scena e l'ho rivista e ho constatato che c'era un'imprecisione storica. Il presidente del Consiglio non stava mangiando una tartina, come ho detto io, ma stava bevendo un aperitivo. Della sostanza non cambia niente, però sono i dettagli che fanno l'attendibilità di un testimone. Luigi Tommaso manda una bella lettera sulla Lunigiana e si definisce un mio coetaneo asimmetrico. Quanti anni hai? 17 o 90? Chissà. Ed è molto ammirato dalla speaker che legge le lettere, interpretate divinamente da un'attrice di cui non so il nome. E allora Gloria Guerrera gentilmente mi dice che si chiama Alessandra De Luca. Grazie Luigi e grazie Alessandra. Allora, Nadia Crucitti scrive: ero amareggiata perché avevo letto sul giornale la storia di una signora croata che per tentato furto è stata 10 mesi in carcere col suo bambino, credo avesse un mese, che è cresciuto lì dentro, al chiuso, lontano dai fratellini, di 2, 4 e 6 anni, bambini che a loro volta chissà quanto hanno sofferto per il distacco della madre. Beh sì, hai ragione, certo, fa impressione che una donna sia mandata in carcere per un tentato furto quando una maestra viene condannata per aver punito il bullo e il ragazzo che ha assassinato il poliziotto a colpi di sbarra di ferro e ha cavato un occhio all'altro vada mandato in comunità prima della fine del processo. Quando rileggo Pinocchio e leggo il processo a Pinocchio trovo che è un immortale pezzo sulla giustizia. Poi, scrive Marco, sapresti dirmi perché tantissimi insegnanti elementari non vogliono uomini nella loro vita e odiano i figli degli altri? Quelli di scuola secondaria sono acide e tantissime mogli in genere, dopo il giorno del matrimonio, diventano arpie? Cosa cambia nella donna, da giovanissima a matura? Lo so, non sono tutte così, ma mi interessa parlare di queste. Ecco, io francamente, Marco, a una cosa così generale non so veramente cosa rispondere, questa è la tua esperienza. Se tu mi portassi degli esempi si potrebbe anche ragionare, ma così in generale diventa veramente un discorso insensato. Sono una ragazza italo-argentina, mio marito è italiano, ma la sua mamma è una donna di crema egoista, ha 90 anni. Lei non le ha dato mai amore a suo figlio, un bacio, un abbraccio, sempre sculacciata, castigo. Adesso pretende amore di loro, è gelosa, egoista,

Ed ecco a voi gli autori, Silvia Cossu e Alessandro Colizzi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Alessandro e Silvia hanno due bambini e la sanno lunga su cosa significhi tirare su un piccolo essere umano. Si fa tantissima retorica su questo, ma loro non ne fanno. In patatrac, il sesso dopo i figli, si sono abbandonati alla satira sull'ora di un tempo dedicata a tutti quelli che stanno attraversando il difficile passaggio. Loro vivono in campagna, sono ortolani, carpentieri, boscaioli, hanno piantato più di 100 alberi intorno a casa con le loro mani, sono capaci di governare una barca a vela e di tirare su due selvaggetti istruiti che sono i loro figli. Sono anche due grandi nevrotici, però con un gran senso dell'umorismo. Nell'introduzione del libro c'è un avvertimento che sta per lanciarsi in questa avventura. Dice, ma insomma, avete mai visto un paracadutista che dimentichi di indossare il paracadute prima di lanciarsi? Generalmente chi affronta uno sport estremo ha seguito un corso di addestramento. Invece le madri e i padri non sanno niente. Il libro avverte che da quando nascerà la creatura voi non sarete mai più soli. Sul più bello, il piccolo terrorista interromperà qualsiasi iniziativa che non sia essere delle unità al servizio della prosecuzione della specie. Che lo vogliate o meno, dal giorno in cui nasce vostro figlio, la vostra vita e soprattutto il legame che vi lega all'altro si trasformerà in qualcosa di ignoto e imprevedibile. Quello che nell'era preistorica della coppia sembrava essere un rapporto solido, basato sulla stima, il rispetto e l'amore, diventa un edificio traballante, a rischio crollo, causa cedimento strutture portanti. Si comincia a fingere, a mentire, a trovare scuse, a parlare e a dubitare di tutto, del sesso in primo luogo, o di quella cosa che col passare del tempo finisce per assomigliargli, veloce, goffo, a volte grottesco. Un bambinello innocente si incunea caparbiamente al centro degli ignari genitori, sino a sfaldarne completamente le ragioni stesse della loro esistenza come coppia. Metà di questo libro non si può leggere a Radio 24. Si potrà leggere forse a Radio Luci Rosse, ma qui non si può. E allora prenderò dei pezzettini che si possono ancora. Qui ci sono due sposi che finalmente, mentre il lattante per un momento dorme, di notte si sentono in salvo e allora, insomma, ci provano. Dormi? Non stai dormendo? Sì. Sì, cosa? Stai dormendo o non stai dormendo? Sto dormendo. Se mi rispondi vuol dire che non dormi. Stavo dormendo, adesso sono sveglio. Io non riesco a dormire. Ho la testa piena di pensieri. Cosa vuoi? Perché non mi baci? Non ce la faccio, sono stanchissimo. Non chiedo molto. Distrutto. Un bacio? Moribondo. Un bacetto? Meglio di no, da cosa nasce cosa io ho veramente troppo sonno. E io cosa dovrei dire che dormo la metà delle ore che dormi tu? Infatti ti ammiro, hai risaputo però che la donna ha dalla sua un battaglione di ormoni che la sostengono. Non ti ho mica chiesto di cimentarti nel Kama Sutra. L'uomo non ce li ha tutti questi ormoni. Volevo solo un bacio. Insomma, in mezzo a questa schermaglia la cosa procede. Ma sul più bello... Oh no! Ti ho fatto male? La piccola ha cominciato a piangere. Conta fino a 20, torno subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eccomi qua. Ho fatto presto questa volta. Ma che fai? Stai dormendo? Quando lei arriva, lui si è addormentato perché il piccolo terrorista ancora una volta ha vinto. Adesso vorrei dare la parola agli autori. Ah, ci spiegate anche come è stampato e distribuito questo libro, dove si trova? Allora, il libro l'abbiamo autoprodotto, quindi l'abbiamo editato con la nostra società di produzione. Abbiamo in un primo momento deciso di usare il web, quindi abbiamo fatto un sito, c'è Facebook, Pinterest, Twitter, abbiamo fatto un canale YouTube con un book trailer e adesso stiamo cercando di farlo arrivare in librerie. Questo libro è nato ormai tanti anni fa, dopo il secondo figlio, che per un anno si è impiantato nel nostro letto e non c'era verso di farlo dormire da solo. Quindi l'idea è venuta a Silvia, un giorno ha detto ma perché non scriviamo una commedia sul sesso dopo i figli? E da lì abbiamo cominciato, almeno io, a registrare tutti i motivi di lite. Cioè appena scoppiava una lite, il che avveniva molto molto spesso, io interrompevo con sua l'arrabbiatura cresceva. Fermo, perché avevo lì e scrivevo tutto quello che diceva. Poi evidentemente è stato anche un po' modificato. Però insomma questo ha salvato da una parte la convivenza. La cosa buffa è che uno prima di fare un figlio non sa che cosa accade. Per cui dal punto di vista sessuale effettivamente cambia tutto. Cioè prima il sesso è una cosa istintiva, è naturale, è assolutamente affidata al desiderio. Dopo no, dopo diventa una cosa che va programmata, va instradata, il bambino dorme, dobbiamo farlo, ma magari in quel momento non ti va di farlo, per cui molte coppie i problemi veri ce li hanno dopo che hanno fatto un figlio. E perché? Perché di questo argomento non si parla, nonostante tutto è ancora un tabù. È difficile che si metta in relazione le difficoltà sessuali all'arrivo di un bambino. Alla fine di tutta la storia, la cosa che secondo me è interessante e che chi lo legge, a parte il fatto che appunto è venuto fuori un libro divertente, effettivamente si riconosce ed è un motivo in più per arrivare a riflettere su un problema. Come si supera quel momento? Riconciliarsi. Come si supera quel momento? E quel momento si supera probabilmente arrivando a ridere di tutti i problemi che questo bambino fa nascere. Però aggiungo una cosa, un dato divertente, che quando ci è venuta l'idea abbiamo scritto un questionario, il libro si apre con un questionario, e abbiamo mandato questo questionario al 45 amici, quindi famiglie, coppie, separati, divorziati, single. C'era la possibilità di rispondere in forma anonima, potevano rispondere alle domande del questionario, potevano mettere aneddoti, potevano scrivere quello che volevano, potevano inventare, ingannare, non dovevano dire la verità. Di fatto di questi 45 amici non ha risposto nessuno, tanto che abbiamo detto a questo punto rispondiamo noi, e così. Quindi adesso siete qua, la tempesta è passata, i vostri figlioli hanno 9-11 anni. La tempesta non passa mai. Questa non passa mai. Ci si può ridere, ma le cose non si risolvono. Devo dire, l'unica persona che abbia accennato a questa cosa apertamente in una trasmissione televisiva è stata qualche anno fa Ambra Angiolini. Perché le chiedevano dei bambini, di solito le dive quando i bambini cominciano a squittire, cominciano a dire, oh, è un rapporto meraviglioso, e cominciano a parlare prima come se fossero le prime al mondo che hanno figliato, e poi appunto scatta il quadretto familiare, no? E lei invece disse con molta serietà, ma è un grosso problema, è un grosso sconquasso anche nella vita di coppia, perché come dite voi è una cosa molto rimossa. Ma cambiano proprio i toni, ci sono queste costanti recriminazioni che si fanno, normalmente lei, la madre a lui, che cerca di fare di tutto, no? Per essere... Beh, è una guerra di opposti egoismi senza quartiere proprio. Io ho cambiato 5 pannolini oggi e tu nessuno. C'è il conteggio e poi questo quartino d'ora di solitudine, anche fumare una sigaretta da solo senza che nessuno abbia niente a pretendere. Dimmi subito se stasera hai voglia di fare qualcosa, perché altrimenti vado a farmi una doccia e mi metto in pigiama. Devo rispondere così, su due piedi? Non mi hai ancora salutato e ti devo rispondere? Devi decidere subito. Vatti a fare la doccia. Sicura? Vai. Non è che dopo cambi idea? La guardiana del faro. E dopo Patatrac sentiamo una madre di 4 figli che invece nega tutto questo. Intervistiamo Vira Carbone, giornalista, volto della TV. Io la conoscevo già in questa veste e poi l'ho avuta come compagna di banco per una graziosissima trasmissione televisiva cui partecipo ogni tanto, che si chiama Verdetto Finale. La vedevo sempre e la invidiavo. Bella, vestita di bianco, leggera. Io credevo che fosse una ragazzina single, liberissima. Invece sarà libera lo stesso, non voglio dire, però ho scoperto poi che ha 4 figli. Allora adesso c'è in linea Vira Carbone che ci racconterà la sua esperienza. Vira? Buongiorno Barbara. Ci vuoi raccontare qualcosa? Intanto cosa pensi di Patatrac, il sesso dopo i figli? Ah, fantastico, fantastico, ancora meglio dopo i figli. Ma sai, nel libro loro parlano di questo piccolo terrorista annidato in casa che appena ci riprovi non sei più padrone di te e che non sei più soli. Ecco. Senti, Barbara, io dico sempre, no, che i figli sono un anticoncezionale naturale. In che senso? No, spiegami bene questa cosa, scusa. No, te lo spiego. Allora, devi sapere che quando ho conosciuto mio marito io ho deciso di acquistare un letto a tre piazze, convinta di dormire comodamente con lui, insomma, di godermi questo lettone. Di nuotare nel letto proprio. Brava, diciamo che poi è nata Maria Grazia, che è la nostra bimba di 7 anni, e ha iniziato a dormire in mezzo a noi. Tu capisci, con una bimba mezzo è inutile prendere la pillola, sai, l'anticoncezionale. In casa, certo. Però io ho girato questo ostacolo in maniera strepitosa. Mi sono costruita, ma con pochissimi soldi, una piccolissima dépendance proprio sul terrazzo. Allora dico alle mie figlie, vado a prendere un caffè con papà, chiudo la porta di casa, entro nella piccolissima dépendance e vi esco dopo un'ora. Ed è come se foste in Australia, all'estero. Fantastico. Quindi abbiamo aggirato l'anticoncezionale naturale e l'abbiamo così aggirato che di figlie adesso ne abbiamo 4. Ah, ecco, vedo che ha funzionato. Ha funzionato meravigliosamente. Sì, cioè, sì. Chi non ha lo spazio, cosa fa? Scusa, va fuori dal davanzale, voglio dire. Io parto da un presupposto che una casa media è sui 60, 70, 80 metri quadri. Una piccola alcova, magari a una piazza e mezzo, si riesce a ritagliare. Un armadio, voglio dire, certo. Ma sì, ma anche un letto estraibile, su, da mettere in qualsiasi stanza, se si vuol fare si fa. Barbara. Quindi per voi non è stata un'esperienza antierotica fare i bambini, ecco. Può essere antierotico nel momento in cui tu, durante la gravidanza, ti lasci anche andare, per cui non apprezzi più il tuo corpo, tuo marito ti guarda meno, eccetera. Io invece sono stata molto attenta sempre, cioè ho avuto rispetto di me, del mio corpo, anche durante la gravidanza. Non sono ingrassata tanto, mi sentivo carina, desiderata anche durante i 9 mesi, e non è cambiato nulla, anzi... Dopo ogni figlia c'era un motivo in più che ci univa. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho 2 figlie. La minore è bella, la maggiore un po' meno. Non è proprio brutta, ma nel confronto con la sorella, e purtroppo con me, passa per tale. E ha un rancore profondo verso noi due, che siamo state più fortunate. Se fossi una madre gelosa e cattiva, avrei preferito la maggiore. Invece sono stata costretta a scegliere, a riversare il mio affetto sulla minore, la bella, perché l'altra mi fa il muso. La colpa è di mio marito, che ha sempre fatto lo spiritoso fin da quando era piccola, dicendole «Mi sa che la mamma mi ha fatto un torto, come puoi essere figlia mia?» Anche lui è un bell'uomo e ci tiene molto. Io l'ho sempre pregato di non sottolineare quella cosa, e poi è successo il disastro. La maggiore si è fidanzata. Era felice, stava diventando più umana anche con me, finché lui diventa strano, viene a casa quando lei non c'è e mi fa una dichiarazione d'amore. Io l'ho preso in giro, ma lui ha lasciato mia figlia, dicendole che è per causa mia. Puoi immaginare che atmosfera c'è in casa. Ti giuro che non ho fatto niente per illudere quel ragazzo. Già altre volte il mio aspetto ha provocato guai del genere, ma non con lei. Riuscirò mai a recuperare mia figlia? Non mi rivolge più la parola. Dunque, cara mamma bellissima, non sei solo bella. Sei un mostro di bellezza. Sei un pericolo. Lo dico appena con un po' di ironia. C'è poco da ridere a immaginare la vita di questa figlia, come dite voi, insignificante, che cresce tra familiari bellissimi e cresce come una rapa tra le rose. Accerchiata, sopraffatta, torturata dalla bellezza altrui, ma soprattutto da un padre e una madre vanitosi e volgari. Quella frase che tuo marito considera umoristica quando dice che forse non è figlia sua perché è troppo brutta è fra le più grossolane e spietate che si possano dire a una figlia, di una crudeltà imperdonabile. Siete tutti e 3, marito, moglie e figlia, colpevoli per l'esclusione della figlia dalla vostra società di belli. Tu mi domandi: riuscirò mai a recuperare mia figlia? Direi che è difficile, che ce n'è già abbastanza per essere odiata a vita, a meno che da questo momento, ma adesso subito, tu non riuscissi davvero ad amarla, nonostante la sua scorza di rancore, che poi è solo voglia disperata di essere voluta. Hai ragione a preoccuparti. I figli bisogna guadagnarseli.

non te la senti di formalizzare qualcosa cui sei già sordamente indifferente. Tu stai almanaccando sul rifiuto di un matrimonio e lui ancora non ti ha chiesto di sposarvi, per mascherare il rifiuto attuale di una situazione un po' stagnante. Mi sembrate avviati, come la maggior parte delle coppie, a fare un figlio quando sono già un po' stufe. Dio ve ne guardi. Un figlio non è un mastice. Quella sì è una promessa. E va mantenuta. La guardiana del faro. L'ascoltatrice Angelica ha scritto questa lettera. L'accorcio è... Cara Barbara, nel corso della nuova trasmissione su Canale 5, Domenica Live, hanno detto che ci saresti dovuta essere tu, ma poi non hai più voluto perché hai saputo che c'era Nicole Minetti. Brava, così si fa. Mi sei proprio piaciuta. Angelica. Grazie Angelica, ma ti piacerò di meno se ti dico che mi è dispiaciuto che lo abbiano detto alla TV. Anche se oggi lo so che sparare sulla Minetti ti applaudono tutti, ma mi è dispiaciuto per lei. Per Nicole Minetti. Dice, ma che te ne frega della Minetti? Mi frega di me. Molto. Sono orgogliosa ed egoista. Non voglio essere in torto davanti a me. Ovvero, non voglio essere troppo al di sotto di ciò che vorrei essere. Io rispondo dei miei difetti, ma non di quelli che non ho. E ti piacerò ancora meno se ti dico che l'ho cercata dopo per dirle che ce l'avevo con lei solo come simbolo politico. Quando appunto uno dice ah se n'è andata perché Alberti se n'è andata perché c'era la Minetti, con quell'annuncio ho fatto la figura della odiosa signora per bene che fugge alla vista della signorina per male. Io non sono una signora per bene, io non sono nemmeno una signora, cerco di essere un galantuomo e non voglio essere confusa con quelle cretine che cacciarono Patrizia Daddario da Piazza Navona. Anzi, all'epoca sono stata l'unica a difenderla, con un articolo e alla radio. Quella aveva sfidato il capo dei capi. La Daddario è la donna che più ha nuociuto a Berlusconi dopo Veronica Lario. E voi la cacciate via. A proposito di Domenica Live, io mi sono sottratta e ne sono ben contenta, sapendo che se c'era la Minetti si trattava di campagna elettorale. Non la mandano certo per far piacere a lei, evidentemente era funzionale al padrone. E non volevo in alcun modo parteciparvi, nemmeno di striscio. Per il fatto che purtroppo Berlusconi è ben deciso a nuocere ancora. Dal momento che ha detto che non si candiderà, io penso invece che si candiderà, visto che da quando l'abbiamo sentito parlare ha detto sempre e soltanto il contrario della verità. E poi in ogni caso, che si candidi o no, è sempre lui che comanda, che muove i fili e che si tiene ben stretto il suo potere. Quando difesi la Daddario, apparentandola a Boule de Suif, la protagonista del racconto di Guy de Maupassant, voi mi avete mandato tantissimi insulti. Poi la Daddario è quella che ha smascherato Berlusconi, a suo modo eroica, sicuramente coraggiosissima. Figuriamoci che mi direte se vi dico adesso che io non ho alcuna ragione per offendere personalmente la Minetti. È che ci siamo abituati a ragionare a quiz. Sì, no, bianco-nero. Minetti a rogo, Minetti sull'altare. Ma un ragionamento non funziona così, e neanche i sentimenti. Questa è barbarie. Quando abbiamo sfilato in piazza, ed eravamo un milione di donne, protestando contro Berlusconi, era proprio il modello Minetti che rifiutavamo. Certo, sono altre le mie donne ideali. Mi piace Sabina Guzzanti, Concita De Gregorio, Franca Rame, quel demonio di intelligenza che è Geppi Cucciari, quella guastatrice della Littizzetto, Gianna Nannini, Chiara Valeri, Isabella Santacroce e via dicendo. Sono moltissime le donne che mi piacciono. Le butto così, alla rinfusa, nei diversi campi. Però, quando i berlusconiani si sono messi a tuonare contro la Minetti si deve dimettere, come dei chierichetti che si accorgessero d'un tratto d'avere il diavolo in sagrestia per rifarsi una verginità alle sue spalle, mi è parso immondo e sono stata dalla sua parte, mi è diventata pure simpatica. Quando sento quel giglio della Santanchè che è per la castrazione chimica capace di qualsiasi nefandezza come strappare il chador alle ragazze musulmane davanti a una moschea, che inveiva indignata come una madre della patria contro la Minetti, lei, proprio lei, la Santanchè, che è un ascaro di Berlusconi, ovvero di quello che l'ha creata la Minetti, mica nasce dal nulla. È una delle cose più ipocrite della banda Berlusconi, cercare di scaricare la Minetti pensando così di sembrare più puliti, come il capo di una bista clandestina che cerchi di farla sembrare un locale per bene licenziando il croupier. e hanno gioco facile a demonizzarla ancor più di quanto non sia demonizzata, perché lei ha colpito l'immaginazione popolare, anche perché è molto bella, forse è la più bella della schiera di Arcore. E che ipocrisia, che impudenza, e quando il PDL e la Lega dicono fuori Laminetti. Laminetti no, Formigoni sì, però ancora in questi giorni li ho sentiti dire: ah, ma lui sta facendo pulizia, ma vergogna. Berlusconi e i suoi 40 ladroni sono pronti a offrirci la testa di Laminetti, a noi tutti e soprattutto a quelle che dicono: quando penso a Laminetti mi vergogno di essere donna. Io questo modo di dire non l'ho mai capito. È come chi dice: mi vergogno di essere italiano. Io credo che uno si possa vergognare legittimamente solo per se stesso, oppure esserne orgoglioso se ne ha motivo. E comunque c'è un altro fatto che me la rende simpatica. Lei e la Daddario, una con coraggio, la Daddario, e invece Laminetti, involontariamente perché non sapeva di essere intercettata, sono le uniche che hanno saputo gridare: il re è nudo. E quanto è brutto, quasi più di quando è vestito. Mai come della sua telefonata con una compagna di harem si è aperto uno squarcio così evidente e spietato su quei riti mortuari ad Arcore di questi vecchi con fanciulle comprate, e mai è stata così spiegata la repugnanza che queste provano. Non mica le compatisco, hanno il loro libero arbitrio, però era forte questa rappresentazione. Mai è stata così efficacemente rivelata, come dalle sue parole, la situazione misera di questi che hanno appena un po' di potere, la prima cosa che fanno è comprarsi le donne, e che mai nessuno gli dà niente gratis, manco un bacio. La sua parola li smaschera. Non sono seduttori, sono clienti che della donna hanno una paura boia, la pagano per cancellarla. D'altronde lo capisco, Berlusconi è un vecchio creso, ha tutto meno la gioventù e la prestanza. E perché dovrebbe amare le donne? Le odia, le vuole sterminare, come Sardanapalo, il satrapo che quando stava per morire fece uccidere mogli, figli, cortigiani, levrieri, harem, falconi, schiavi e cavalli, e così lui che vuole guastare tutto prima di morire. Lo scandalo non è Laminetti, lo scandalo è Berlusconi, è ciò che ha fatto del nostro paese e che sta facendo a tutt'oggi sotto traccia. E se è vero che mentre Laminetti occupa il gossip e la satira, intanto Berlusconi nei sondaggi lo danno all'11%, se è vero che l'11% degli italiani lo voterebbe ancora, beh allora ci meritiamo di tutto. Ci meritiamo Ubu Re, il personaggio di Jarry, simbolo del più grossolano e devastante potere, che dice sempre merde, non sa dire neanche merda, però la rappresenta. E infatti lo abbiamo avuto, Ubu Re. Io non ce l'ho con lei, con Laminetti, non tanto, nemmeno politicamente, perché alla fine fra le donne messe in politica da Berlusconi è stata la meno dannosa, non è diventata ministro, non ha certo le colpe di una Gelmini, e quando lei rifiuta di dimettersi, resistendo al branco dei berlusconiani e di Berlusconi, come cittadina mi incazzo, letterariamente mi esalto. Perché penso Laminetti alla stoffa delle grandi cortigiane del passato. Io lo so bene chi è lei, è una che sa i peggiori segreti di Berlusconi, è una complice. Però Berlusconi è stato, continua ad essere la rovina nostra. E lei è una Duclos senza de Sade, la Duclos delle 120 giornate di Sodoma. È una Pompadour senza re. Peccato che invece che alla corte di Francia si sia trovata con la banda di Berlusconi. Laminetti per me è una cortigiana in cerca d'autore. Lei è un picaro, è una Moll Flanders più fortunata. Dispiace pensarla con quei vecchioni, però lei va più veloce di loro e chissà che magari un giorno non li sorpassi per una più ariosa, per una meno laida, meno umiliante, più libera avventura. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.